la cosa se leña. E poi a me li per era desea. Dai nei tegni lea e la pena. Dai nei tegni lea e la pena. Itao Tuna lau ke maskale buzune te ka shaina swa tuye nishakame te ka shaina swa tuye nishakame Mekniatu na lauken maskari buzune.